B. Ascolta e controlla. 1. Se Maurizio arriva in tempo, invitiamolo a cena da noi. 2. Ragazzi, scrivete un tema di 200 parole sulla vostra gita al lago. 3. Patrizia, leggi l'articolo di Roberto, ma non parlarne con nessuno. 4. Maria, alzati subito dal letto, rispondi al telefono e preparati per la lezione. 5. Prima di uscire di casa, guardati allo specchio. 6. Andiamo in campagna a fare un picnic all'aperto. 7. Non attraversate la strada in fretta e furia. Fate attenzione alle macchine. 8. Vuoi andare al supermercato? Allora vacci quando sarà passata l'ora di punta. 9. In questo esercizio metti le preposizioni invece dei puntini. 10. L'autobus per l'università è in ritardo. Se non arriva fra 10 minuti, andiamo a piedi.